Buongiorno, buonasera. Ciao a tuo, buonasera anche a te. Io sono rientrato adesso in macchina con la spesa. Saluto carta, un bel di carta, acqua e poi vabbè, cose da frigo, c'è ogni aggaglio. Mamma mia, mi sono messo la testa sotto l'acqua. Proprio immerso lo gabbo nelle cose, il lavandino. Ogni tanto la cerco pure io. E vabbè, dai, sono entrato per un saluto, vedete che c'era, ancora è presto, saranno dormiti, come si dice a Sassari. Adesso mi calmo un po', preparo da mangiare, che noi non abbiamo pranzato, e poi si vedrà. Ok, ciao Anto, buon proseguimento di serata. Ciao, ci sentiamo. Per la cronaca, la modulazione è buona? Sì, diciamo bene. Sì, questo è un altro baracchino, sempre omologato, però è diverso. Va bene, ciao Anto, ci sentiamo, ciao, buona serata. Ciao, ci sentiamo. Natalino, può cuomane. Natalino, può cuomane. Natalino, può cuomane. Sono importati le barrate, portate le precombe. Beh, ce n'è qualcuno in questo canale. Vabbè, Claudio. Vabbè, Franco. A Londra, a Londra. Che stai a fare di bello? Nulla, mi stavo facendo così due prove con l'FT920. Ascolto bene, arrivi bene qua. E io devo arrivare. Sono una bella radio. Una bellissima radio. Il cappagazzo. Stavo studiando, mi ho finito adesso di fare delle formule. Adesso accendo a vedere chi c'è. Sì, boh, se sento nessuno da poco fa che è acceso. Quanto è il segnale fra? Così con questa da 25 watt in AM? 9,10 a picchi 9,15. Radio ultima, bella modulazione. Cappa. Guarda invece adesso. Guarda, stai attento. Adesso quanto è il segnale? La radio è rimasta sempre la stessa, quanto è il segnale adesso? Allora, alle 9.15 si è passato quasi a 9.30. Quindi già funziona il drone? Sì, a Puglia che funziona. FL2100B della IESO, il suo amplificatore di linea. E si sente lo scasso, tac. Relè. No, questo è un segnale amplificatore. Questo è un signor amplificatore, ogni tanto bisogna che lo tolgo, poi in banda laterale, mamma riduci, questa non ha potenza in M. Vabbè, quindi la regoli è diretta, senza regolazione di potenza. Beh, figurati che l'amplificatore riceve 100 watt d'ingresso, ne sta dando 25, ne sta dando appena 300. In FM ne da 900-950. Io ho capito che la bella bestia deve essere, anda proprio questo, sente bene. Ma questo faccio scaldare questo qua, che era fermo, ma adesso accendo anche a lui, se no si rovina. Aspetta che è andato in tilt, è andato in protezione, aspetta. Ogni tanto lo fa. Quando supera una buccia di gioco. Io già, andiamo bene. A settembre comunque sono gli esami, non sono ottobre, a settembre, che ha vinto gara. A settembre addirittura, aspetti, mando la foto dell'amplificatore. E mandamela su WhatsApp, mandatemela qua. Ah, siamo qui in linea, aspetta, già ti arrivo, te l'ho mandato. Come campagna, un casino sono queste linee lì. È un casino, infatti. Però abbiamo dei mattazzi lui, in un terrazzo. Questo bene va come radio. Questo è... sto utilizzando la stazione. Va bene, ottimo. Alla grazie. grande. A me non si interrompe più, ogni tanto volte mu via, a volte non usciva, che? Questo non me lo aspetto, non mi fa tutto. Perfetto. Funziona anche il down e up. Beh, anche qua funziona tutto qua. Adesso come gli arrivano quei connettori me ne faccio un altro più lungo da un metro. E si conferma se riesco a mandartelo sto cazzo di chiore. Quindi io andavo anche più lungo, dai. Ciao Massimiliano, buonasera. Un metro, adesso questo che ho fatto è 50 centimetri. Ciao, ciao, fra, ciao, qua. Cazzo qua, ogni bestia che... Cos'è il vagolare questo? Arrivatati. Cazzo ogni bestia, ma c'è un vagolare questo. Adesso non lo vedi, se lo ingrandisci ce lo vedi, 10, 15, 20, 40, 80 metri. È quello che avevo prima, l'avevo dato a Valerio. Per il 2100B c'ha due valvole e vale nei due fondi di bottiglia, c'è un assorbimento di 2 kW, fate il conto. Ciao Massimiliano. Gappa, lei di passaggio ero giusto per salutarvi, ci sentiamo, ciao Franco, ciao Claudio, magari dietro dopo. E questo è un 45. Vai a farmi due passaggi se c'è qualcuno là. Ehi, ehi, bene, mi ascolti? Sì, sì, benissimo. Anche di segnale? Anche di segnale, sì, sì. Gappa, gappa. Ma quello cosa monta? Le stesse valvole del TL922? No, leggermente più piccole. Queste sono le 872, 30 mi pare, quelle sono le non me ne ammetto. Io ho capito. Ma comunque è bello, un bel applicatore quello lì, quello più scaldo è più da parte, no? Di solito i valvolari sono così, più scaldano e più erogano potenza. Sì, non aveva cresciuto gli occhi. No, questo è stabile, questo ce lo sai, no, come funzionano questi amplificatori, non sono fra 27, non puoi attaccare il baracchino, questo c'è il cavetto che va uno sul PTT della radio dietro e uno sull'LC, è comandato dall'LC, capito? È tutto in automatico, non funziona col baracchino questo. Certo. Però io ne ho uno qua, cioè io un amplificatore HF qua, ma è un A300, c'è scritto così HF CTA International A300W, però non lo so se lo puoi pilotare col K a quello. Se per la 27 sì, non ha bisogno di cavetto, ma quelli HF come questo hanno bisogno del cavo in dotazione per farlo andare, capito? Prendere l'alimentazione per i PTT, per la LC, se no non esce l'amplificatore. C'è un cavo grosso, se lo manda Massimiliano. Beh, questo lo puoi pilotare 5-10 watt d'ingresso e automaticamente c'è quasi 18 ampere di assorbimento. Non vai assorbimento, ti preoccupa. No, questo c'ha 100 watt, 0-100 watt d'ingresso, infatti ne sto dando 25, quello che dalla radio là. Se questa radio avesse dato 100 watt in AM, allora erano i dolori. Ma sai che mando la foto a Massimiliano? Ehi, fai. Lo riprendo subito, Claudio, mi sto facendo un caffè, ok. Ehi, Claudio, sono qua. È il 15. Pippo, pippo, pippo. Fatto diversi collegamenti. Inizia la frequenza, attizio la frequenza. Ora, attizio la frequenza. Ora, attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Ma cosa vuoi, fischiando a voci, boh? E allora, sono allegro perché sto finito di cantare. Ah, così è. Vabbè. E Natali, dai, ogni tanto per staccare la spina, mamma mia. Almeno qualche cosa si fa, da. Adesso mi è venuta questa passione, boh. Vabbè, la passione l'ho sempre avuta del canto, tant'è vero che mia figlia ha preso da me. Però lì mi ha superato, da. È perché quello lì è di marca, non hai capito? Emanuele ha fatto scuola di canto, capito? Quindi è normale che sappia cantare bene. anch'io v'arrangio, dai, m'arrangio e faccio qualche calzoncina così con gli amici, in duetto, con le amiche, e mi diverto. A te non ti piace cantare, se no te ne vai su Star Maker e canti anche tu, eh? A me mi piace cantare solo quando sono cotto. O quando sei in questura. No, lì non mi piace, la verità, Quando sei cotto, io canto sempre. Io, a me piace molto cantare. E c'ho anche una bella voce. Vabbè, quello è da constatare, non lo so. Tu non mi hai mai sentito cantando. Ah, io cantaci una canzone qua. Sentite lei, mia moglie, a stare attenta a non cantare in questura. Gianetta, diglielo. E io ya. A passare a buffonadura, sta lì. Oi. Intanto passo un po' il tempo, mi anche concetta, cioè, mi piace. Passa il tempo e ti diverti. Sì, ma non c'ho la passione, io poi la voce non ce l'ho più come prima. C'ho sempre la voce bassa, boh. Adesso? La picciaia è garronia. No, è cambiata proprio la voce, non ce la faccio. Sì, un po' di allenamento, Natali. Un po' di allenamento e ti riviene come prima. No, deve essere c'ho qualcosa alla gola e non riesco a cantare. Tu devi cambiare la voce, io devo cambiare la gamba, che mi fa un male, che non li posso più. E quella anche io. Uia. C'è una furia di occhi, di coso, di pomate, di cose, ma non mi fa niente, mi fanno bene nel giorno e poi di nuovo il giorno dopo punta a capo. Perché quello è un palliativo, Anzi, bisogna non abusare di quelle cose lì. Ma io lo prendo sempre, prima prendo il gastroprotettore e poi pido l'ucchi, no, non mi butti a me, e lo prendo sempre a stomaco pieno. E dice che è tremendo quell'ucchi, pari così, io addirittura non ne posso neanche pigliare di questo. Ma dice che è come una droga, che ti dà soddisfazione, lo sai? Quello non lo so, aspetta, mi misuro la glicemia. Misura. Avanti. Io sono. Oh, io non mi conosci che sono Cantonio. Ma dici? Oh, è una di. Capo, sono da molto che non ti sento. No, te sto uscendo già. Ah, è la radio, buono. Sì, già va bene. Comunque da Itri sei 9, Radio 5, Radio 5 già si sente, va bene. Buonasera Itri. Chi è che parla? Gianni Doppio Ru, buonasera, Antonio sì. Ehi, Antonio sono. Cava, dai. E vabbè, dai. Meglio rispolverare tutto. Ciao Antonio, eravamo già in ruote di Natalino. Natalino si è assentata a misurarsi la glicemia. Capanto avanti. Eia, e beh già in macchina sì. No, a casa sono. A casa? Eia. Cavolo, parliamo in macchina. Perché? Come sto uscendo male? No, benissimo. Di solito le modulazioni così li uso in macchina. No, questo qui è il microfono nuovo che ho messo sul Superstar. Questo qui me l'ho ordinato per il Superstar perché, vabbè, adesso il Galaxy mi è partito, quindi sto usando questo qui al posto del Galaxy e mi ho ordinato il microfono amplificato. È buono questo microfono, ordinatelo anche tu perché va bene. Va bene. Appena che mi compro un altro apparecchio nuovo, sì. Cosa? Appena che mi compro un altro apparecchio nuovo, sì. Vabbè, dai. E già ne hai apparecchi, non ne hai. Come esce di radio? Amplificata? Una bomba. KK, va bene allora. Questo qui è 3009 con il microfono KPO, è un nuovo microfono che ha scoperto Marco Condor e poi se l'hanno comprato, se lo sta comprando un po' di gente. Là. È buono, è buono. Va bene. Ma stavo leggendo. Il rapporto di segnale buono è da lì a qua. Prova modula. Numero 2 e 3 prova. 9 e 5 Antu. Già va bene. K. Avanti. Ma io non ho capito se è Antonio da Ittiri. Antonio, tu sei? Attenzione amico di Ittiri. Avrà chiuso, non lo so. Stava provando, stava. E ha spolverato la stazione, ha detto che era un po' di tempo che non entrava. Cava cava tu. E quindi adesso questo qui mi sostituisce il Galaxy. E mi accontento, cosa mi puoi su va? Cava che una bomba con la radio. Cava cava, andate. Dove sei tu a lavoro? Cava. Sì, oggi stai uscendo più bene, è strano, stai uscendo più bene del solito. Se non ci si mette da tutto. Ah, ma si aiuta? No, è da tipo. Ho sentito anche il capo. Ma se quel capo era nuovo, Antonio, l'ho usato due settimane e poi l'ho cambiato. Che cosa c'aveva il capo? È entrata acqua. No, vabbè, ma la resa diversa il capo grosso, già. Ah, ma non è perché non andava bene? No, andava benissimo. Cavagava, lo so, ha una resa diversa, ma non fa. Io l'ho messo il cavo nuovo, io non è che noti tanta differenza, vabbè comunque, dicolo, poi io con l'RG58 ho campato anni, e è sempre andato bene. Vabbè, l'RG8 comunque le macro due segnali sono più alti, la verità, il cavo grosso è un'altra storia. Ma non c'è bisogno che sia grosso, deve essere solo buono il cavo. Io per dire c'ho la K1000 ed è va benissimo quel cavo e non è grosso. È una trattoria, è già una così, ma io me ne accorgo, i segnali sono più forti. Sì, ma quel cavo lì è troppo grosso, ti muove gli strumenti, tutto gatto, a me non mi piace il cavo così grosso. Poi devi fare buchi grossi per farlo passare, no. Va bene il cavo fino, l'interessante è che sia un cavo buono. La camina e la cacetta sono buoni come cavo. No, già non c'è problema, tanto è appoggiato da una parte e boh. Quindi no, non ve ne problemi che poi qua passa dappertutto, no? L'ho messo apposta per quello. Ehi, vabbè, lì, ma se devi fare a casa, devi fare il buco nel muro, devo vedere per dei buchi così grossi, no? Io l'ho fatto passare dalla porta finestra il capo, ho fatto il buco nel legno invece che nel muro. Poi ho messo il silicone bianco, non si vede nulla. No, qua va bene invece. Qua va bene, ricordate che non lo fai, capito? Vediamo un po', attenzione all'amico di Ittiri, sta salendo la propagazione anche. Natalino, ci sei? Ehi, deve essere sgusso quello di Ittiri. Ah, mi intende lei? Io già ti sento, tu mi senti? Sguscio! Ti comprendete? Oh! Attenzione, sul 10! Avanti! E guardate se è cambiato qualcosa con questa parete! E adesso stai scendo più forte! No, questo è uno di quello comprato da poco, di quelli piccolini, un palmo e grande! Sì, più forte il radio è tutto, va! Non ho capito però di nominativo, che nominativo hai? Il Leone Primo, dai, Leone Primo, mi volavo con sciaccia di moto, con al tempo che c'era Attila anche. Cazzo, qua arriva una bomba, 9-10 Radio 5 da Ittiri, E sarà attaccato? Boh, non so, l'ho ordinato da Inter, un CRT Millennium. CRT Millennium, c'è bene, ma cosa c'hai anche lineare sotto? A sto provando questo, l'ho compreso che mi ha detto che non andava bene, invece sta uscendo. E c'è meglio di quello che ho usato prima. Adesso questo in base. Sì, va benissimo, dai. Dai, riprendete voi, dai, che io stacco tutto e ripeto il rapporto com'è. Andà bene, va bene, avanti, Natali. Arriva un bel forte a Ittiri, da Ittiri. Non so come ti è arrivando io. L'amico Dizzi, quanto ti arrivo io lì? Dai, arrivate bene tutti quanti, dai, qua mi segnale, mi dà 7, la radio è buona, dai. Cappa, grazie. Lo so, questo non è ASMI, c'ha questi led che lampeggiano, non è che sia tanto affidabile. Qui a... cappa, c'è una bomba qua comunque. Già va bene, già va bene. Oh, io vi sento tutti, dai, vi sento tutti. Cava cava. Che antenna c'hai? Che antenna hai, Mantova? Cos'è la Mantova? Sì, a trovarci. Gli uccelli me l'hanno buttato a terra. No, non fa niente. Sono col portatile a piedi. Vabbè, il radiale li puoi rifare, li puoi rifare. Vai da Bricco a Sassari, li vendono. Vendono l'alluminio e te li fai a misura e poi li metti i cappuccetti davanti, vendono anche qui. Il radiale non è niente, se hanno rotto proprio l'attacco dell'antenna, come se sono poggiati sopra. Antenna di gomma, funziona, mi sentite? Avanti. Avanti. Sono con il portatile a piedi. Portatile a piedi dove ti trovi? In che zona sei? Che sta gettendo la buio fa vita. Con la batteria, mi senti? Ti sento, dici chi sei, dove ti trovi? Sono Frank, doppio room. Chi sei? Frank, doppio room. No, no, non ho capito cosa ha detto. Aspetta, vieni avanti, io lo sento basso, basso, basso. Doppio room. Veramente doppio room sono io, dimmi. A te sto dicendo. Sei Stefano. No. Vabbè, hai un nominativo, dove in che zona sei? Sono Frank, mi ricevi ora? Io ti ricevo, in che zona sei? Con chi stai parlando già? Fea. Con uno col portatile, ma non riesco a capire perché a volte non risponde. In che zona sei? Ho la frequenza disturbata, un attimo. Io. Tu, ma chi è? Come ti chiami? Mi chiamo Frank. Frank. Frank, da dove stai trasmettendo? In che zona ti trovi? Pidriassi, zona Pidriassi. Ah, zona Pidriassi, quindi sei tra Portatore e Sassari. Bravissimo. Ma cosa, come fai a arrivare dalle Pidriassi con un portatile così forte, boh? Qua è Santiago Nove, boh. Sono con la batteria di moto. Qua arriva a 9, come tecla? 9. Anche qua è 9, perché io quella zona già ce l'ho aperta, boh. Guarda, se c'è il portatile è favoloso quel portatile. Meno male. Dov'è che sta arrivando forte anche ai tiri? No, sto già. No, non sono Gianni, sono Claudio Sparghiero, chi è? Chi sei? Leone. Ciao Leone, buonasera, ben ascoltato. Ma parece che portatile è una bomba anche qua. Ah, vai che non è che ho portati. Non lo so. Bene, ti arrivo i tiri, Leone. Ah, c'è la bocca al microfono, si sente poco la modulazione. Il microfono girale, soltanto, apparito, ma non lo capisco. Dopo 20 euro. Chi era l'altro? Antonio Bombo, tu sì. Ehi, Antonio sono. Ciao a te, buonasera per ascoltare. Caffa, buonasera anche a te. Beh, io vi devo lasciare che sono in via di... come si dice? Di uscita, dai, ci sentiamo. Ciao, ciao. Ciao, mi senti bene lì in laboratorio? Ehi, cazzo, sei 9.30, a voglia. Ehi, vabbè, c'è il drone attaccato a minima potenza. Ammazzano in varia. Vabbè, riprendi Gianni. Ehi, aia. Cava, cava. Ma quell'apparecchio stai usando? Il 920, sì. Cazzo, già va bene, dai. Già va bene. Andate. Facciamo, vediamo se Natalino è rientrato. Natali ci sei. È uscito per farsi la misurazione dell'insulina, non è rientrato. Avanti, Ittiri. Leone. Aspetta che mi sta arrivando dei messaggi, voglio vedere chi è. Attenzione, Ripidriazzi. Attento, l'amico di Ripidriazzi. Allora, non c'è più nessuno, portatile. Attento, portatile. Attenzione, binario 10, non c'è rimasto nessuno. Osaggio. scarpa. C'è anche Natalino, mo scomparso. Oh, Natalino, Natalino. Scusate, c'ho la batteria del camion scarica. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ci sentiamo. Ma lasciala qui. Cosa già? No, quello del portatile stavo dicendo, ci ha salutato. Ho capito. Ciao, buonasera, ben ascoltato, alle prossime. Grazie, gentilissimo. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo. Ti ho fatto un interrogativo, da sana l'auguri. No, c'è la batteria per pagare. Ah, ho capito, vabbè, ne ho preso lì. La batteria del barracchino. No, ti ho fatto un interrogativo, ho chiesto se lavori da Sanna, autotrasporti Sanna, perché via Libidriati c'è Sanna. No, no, lavoro a Casasato. Ah, capo, va bene, dai. Pensavo che lavorassi lì. Oh, ci hanno chiamato Roberto, non lo trovo da nessuna parte. Roberto, dove sei? Ma sto le mando un messaggio di questo, forse 10. Ma Roberto qua là? Eia, aspetta che entra qua Roberto adesso. Vai, vai. Oh, già qua sì. Sto usando 29,20, come segnale? È più forte di più, a 9,35 è fisso. Ma non ha traviso questo segnale, 9,35 è fisso, 9,35 è fisso, e così invece quanto è? Di quanto si è abbassato? 9,25. Vabbè, siamo in città, però già va bene. Fammi vedere la differenza della radio, se ti mangia la radio. Non penso proprio, se c'è il cavo di autocontrollo delle elici, come fa a mangiarsi la radio? Così è staccata, è così attaccata, 1, 2, 3, 10, 20, 30. No, non ho più differenza, quasi, quasi uguale, se proprio magari forse un po' picchettino, un pelutino più forte è attaccato. Già, però più forte sì. Te l'ho detto, vabbè. Questa in AM c'ha 25 watt, non ne dà di più, capito, la radio. Ma la laterale sì, è in FM. Se avessi avuto 100 watt anche in AM, allora sarebbero dolori. FM non ci può andare, se no spacchi tutto. No, tanto c'ha lo switch e non serve in FM questo. No, però nessuna parte, giusto per farlo andare un pochino. È acceso da stamattina e basta. È collegato a questa, se c'è propagazione qua in AM, li culo guate scambati, se no nulla. Già, va bene, dai. Quindi a 40 non ci arriva, manco con i picchi di modulazione. Quasi 40, sì. Vabbè, noi siamo anche vicini, però già rulla, dai, già va bene. A Puglia, chi c'è detto i pulsi? Ok, chi c'è qua? C'è Gianni, non so se è andato via, già ci sei. Ciao Roberto, mi sto mangiando il ghiacciolo. Ehi, ciao Gianni, che segnale metti in segna con il tuo, cos'è, 9,20 qua? Che cosa, sì, le 9,20, lo stesso segnale 140, cioè 9,30. Ciappa. No, è preciso, perché il 140 è preciso, un po' meno il 4,30, ma un pelino, ma 140 col digitale è proprio preciso. Ma perché 9,20 c'ha l'indicatore digitale, a barra dei LED? LED? No, LED sono i LED, questo è digitale, digitale proprio, digitale, questa è una radio digitale, digitale, capito? Questo è l'FT 920 DSP. Ho detto, se lo smitter è digitale o è come, cioè, per dire, come 950 o come 940 lo smitter? Come 950, come l'FT 950 uguale, con digitale, non sono LED, i LED sono LED, questo è proprio digitale lo Smith. Ma rete LCD sono, dai, fluorescenti. Esatto, sì, preciso, 9 più 30, come il 140. K. Già va bene. Te l'ho detto, la differenza che c'è, che la radio un po', io dico metallica, ma non so se da regolare o che cosa. Però solo quello lì, però per il resto è forte, va bene. No, già, ti ho già corretto stamattina, questa non è metallica, ha più acuti, capito? Mentre il 140 ha più bassi con l'MC60. Capito? Quella là ha i medio bassi un po' più alti, questa invece c'ha i medio alti più alti, capito? E per quello non è metallica, assolutamente. È questione di radio diverse, questa è una radio digitale e quella là è una radio, un baracchino a sintonia continua, capito? Volendo dal menu puoi regolare i bassi. No, questa è regolata per la banda laterale, Gianni, in AM esce così. C'ho 25 watt in AM, non regola in AM, non ha compressore in AM, non c'ha niente in AM questa. Questa agisce tutto FM e banda laterale. All'interno c'è l'equalizzatore, tu entri nel menu, c'è un menu di 300 posizioni, è una bestia. E l'equalizzatore c'è inserito per la banda laterale, se noi andiamo in banda laterale ti accorgi la differenza. Ciao. Capito. C'è qualche altro qua sul 10? Ma il mio amico ha attaccato il 10 spugliatore. No, ho inserito il DSP, non si sente manco la mossa volare. Se attacco il 140, commuto a 140, c'è il QRM a Santiago 9 più 20, il rumore del 10 spugliatore. Questo è Mirko, ciao Mirko. No, io sono Mirko, chi è che ha detto buonasera avanti? A me mi sembra Mirko, tu sei Mirko? Oh, dove fa vedere, ho già Mirko, che è un francese. Avanti, chi è? Come ti chiami? Ciao Thomas, good evening, Radio Sparghiero dalla Italia a Sardegna. Buonasera, ben ascoltato. Sì, sì, capito positivo. Vediamo un po' se ti sento anche gli altri amici, vai Roberto. Sì, mi sembra da quasi 9, Santiago 8. Ciao Thomas, Roberto, Sassari, Lodo Sardegna, Quasselle. L'hai sentito Roberto, Thomas? Sì, ha risposto. Mi manda a farvi dato sopra, però, era sotto di te. No, ma parla, Thomas. Cosa? Dov'è Thomas? Che città si trova? Oh, sinceramente non ho capito niente. Io sì, Thomas, please. Francese, io francese non ne parlo niente, è vero. Oh, ma avevo una voce strana, non so se era francese. Attenzione, mon ami, che era a Villa? A Villa Borghese. Ma ora non vedo più se ne è andato, ha detto buonasera. Ah, basta. Tu hai detto che era francese, boh. Oh, l'accento mi sembrava francese, ma era un po' strano parlando, non lo so. Ma sono la parete a Mario lo francese, no? Veramente Mario francese, ma ancora vivo? No, era morto, ma tu te lo ricordi? Certo me lo ricordo. Ma compra perché quella roba l'ha bucata, Claudio. Quella roba? Sto prendendo per preservarti di bucata. E allora? Pure bugiava con lo spillo. Che tempo che era il fallino, che fuzzinoso, commerciante che era. Non so il cognome come si chiamava, è via, quella via che porta a Colonnare Mariana, che era sempre pieno giocattoli, tutte le cose per bambini, per il natalizio era, sembrava un pacco di divertimento. Ehi, dove stava Maria la pazza? Ehi, dove stava Franco Cagamodandi, lì, attaccato al banco di Sardegna, sotto, vicino, di fronte al portico. Ma un fiaco di bingo che vedi anche vedrai tu, cazzo, mamma mia. No, io mi ricordo, da quando ero bambino di lì. L'avevo comprato da Mario Francesco, i giocattoli. Le bombette, io andavo a comprare le bombette. Che aveva meglio orologi però. Prendeva di tutto di più, però non mi ricordo di dov'era lui, di origine, di che posto era. Francesco era. Francesco era, di Tolone era. A Duane. Non mi credi? No, forse ha vissuto qualche periodo, ma non so se era di qualche paese dell'entroterra, qualcosa del nord-est. Ah, io credo che era Francesco. Perché c'è stato, non so, emigrato a lavorare, ma poi era tornato qua. Non mi ricordo, ma a me già mi informo, già c'è una persona che lui sa tutto di queste cose. Oh, cosa c'è il formatore? Come quell'altro, ti ricordi? La regina, come si chiamava? C'era la regina. Cioè, quello lì non era andato in Francia, aveva fatto un po' di successo. Lo so, era fratello di un amico mio, di Galvino, che poi Galvino, poveraccio, è morto. In aereo, con l'aereo che era precipitato, nel Cagliarità, che lui doveva tornare la sera, cioè ha preso l'aereo l'indomani, doveva prendere la nave, però ha preso l'aereo l'indomani. Era proprio stata una fatalità, doveva prendere la nave perché era militare lì nella zona di Cagliari e basta, non so dov'era esattamente, non a Cagliari, però ha preso l'aereo per arrivare prima, capito? Ed era caduto l'aereo. Ho sentito che oggi un aereo è caduto, non ho capito dove, se in che nazione è successo, poco fa l'ho letto su internet. Quello lì era quello che si è sbattuta la montagna, non so se ti ricordi, c'erano anche gente famosa di Sassari che era morta, e lui mattina va preso l'aereo, la sera l'avevo vista, e poi non si è partito, no, prendo l'aereo domani, così almeno sto un giorno in più, prendo l'aereo domani invece che prendere la nave, c'è l'appartamento. Quello lì era il fratello, gli ho vino la regina, un bel ragazzo. Boh, non lo so, so appunto di questa storia anni fa, però se fosse parente di cosa, di quello Gianni la regina, non lo so. Ma nel monte era Gianni la regina, mi pare, no? Ma se forse c'è qualcuno che ha chiamato, avanti che vuole entrare? Forse il QRM è a 7 fisso, ok, di nuovo a te chi tocca Gianni. E in Francia ha fatto un bel successo, cavolo. E sarà ancora lì, penso. Ha fatto un bel successo in Francia. C'erano anche manifesti e cose, una volta che è venuto qua a Sassi. Ma noi c'era un altro, però non era sardo, Adamo, non so se avete mai sentito il cantante. Tu diventa le macchie, io ho visto un concerto in Corsica, diventavano scemi per questo qua. Non mi ricordo dove sia, se tu cerchi, loro chiamano Adamo, ma un po' di canzoni, tipo come può essere da noi Celentano, gente così, e Baglioni, lì diventano scemi, così quando ho visto il concerto di Umberto Tozzi in Francia. Vedi, la gente conoscevano tutte le canzoni, a memoria le cantavano. Umberto Tozzi ha fatto delle belle canzoni, io ne canto ogni tanto. Sì, ma in Italia, ma all'estero, così vai in Russia, cosa, come ti diciamo, quello che cantava un italiano vero, Toto Cutugno, Albano, ma succede i ricchi e i poveri, tutti a memoria fanno un festival, tipo il festival nostro, di canzoni degli anni 80, e invitano tutta questa gente qua, la maggior parte, i più famosi sono gli italiani, cosa, l'altro, come ti diciamo, Riccardo Cocciante, tu devi vedere come diventano, le conoscono tutte le canzoni. Perché fa un tipo di canzone. Sono fa un tipo di canzoni melodiche piacciono ai giovani, eccetera. Già lo so. Ok, vai qua. Io stavo cambiando il radio. Sta facendo la prova, abbiamo fatto, già va bene. Questo è il 40 o il 30? No, questo è il 140. Ma il 430 non lo fai più girare? Sì, ce l'avevo anche ieri, posso commutare, questo è il 140. E questo è il 430, ormai sono tutti sotto commutazione all'antenna. Questo è più forte la radio, anche se mi piace più quella del 140, è più salottiera, questa è proprio la bombardamento. E infatti siccome qualcuno ha detto che lo bombardo le orecchie, allora lo uso poco, uso il 140. Poi adesso usando anche il 920, il 27, quella è proprio la salotto. No, no, ma le modulazioni di Kenwood sono uniche, non vi ne, le altre radio mi puoi far sentire tutto quello che vuoi, come 920, a meno che non usi equalizzatori, cose strane, però naturali come il Kenwood non ce n'è. Vabbè, la 920 è naturale, non è da combattimento in AM, ma le laterali già te l'ho fatta sentire. No, no, io parlo in 27, come il Kenwood non ce n'è, non vi ne, tu puoi prendere anche 940 e TS2, cioè quella serie lì, 140, 680, c'è una modulazione spettacolare, 430, 440, non vi ne. Sì, a me luci, dall'87 è chiuso questa radio, l'ho sempre detto, è così, gente a fare, lo dico, 920 in AM, ti ricordo che non ha compressore, non ha processore, infatti sono 25, sono operati così e non puoi toccarla, ma in banda laterale te l'ho fatta sentire, hai visto quanto spinge in FM? Sì che spinge, non lo so, anche io ho 940, rispetto al TS2000 che lo puoi equalizzare, ma non ce n'è, appena mi sentono in HF con 940 mi fanno tutti i complimenti, c'è una modulazione in banda laterale, in AM fa zichifu, ma in banda laterale è micidiale, ho visto la registrazione, mi hanno mandato rispetto al TS2000, ma proprio sente, come tu quando provi un baracchino col 440, la stessa differenza, bella corposa, naturale. Non te l'ho fatto sentire io il 140 in banda laterale, ma hai detto cazzo, il 140 è più forte del 920 in banda laterale, perché è la timbrica della modulazione, più corposa, più con tonalità medio-bassa, mentre gli ASI, come anche in banda laterale, hanno la tonalità medio-alta, capito, come piace a Marco, Marco usa quelle lì proprio perché hanno quel tipo di tonalità. Vai Norvegia. Sì, quello, loro piacciono quelle più acute, a me sinceramente mi piacciono quelle naturali. C'è un altro qua, lo stesso, ce l'ha il 940, ogni tanto ci sentiamo, uno col 440, un altro c'è il 140, ma sono belle le modulazioni, con le MC60 poi la volta è sua. No, ma infatti io la MC60 per me rimane sempre il numero uno dei microfoni, non ce n'è per nessuno. Caffa. Vediamo se qualcuno vuole entrare sul 10, attenzione 10, chi vuole entrare, se no fate come volete. Sono tutti amici di buffo. Un po' di gente che ascolta, tu neanche ve lo immaginate, non sai quanta ne troppo di persone io. Ogni tanto, vi sto ascoltando, vi sto ascoltando. Ma che senso ha? Vabbè, c'è gente, c'è una persona, non faccio nome, siamo amici, una persona grande di età, avrà 77-78 anni, forse l'età di Giulio, cioè, me di Giulio, sì, l'età di Giulio. E quello lì ascolta tantissimo, me lo dice, io d'estate vi ascolto, cioè d'estate d'inverno vi ascolto tanto. Anch'io già ne faccio di ascolto, non è che sono sempre, però se mi va di entrare entro. Se non mi va rimani in ascolto. Ma lui non è frega niente, così accende la radio, accende anche il coso marino per ascoltarsi i pescatori, cose così. Gappa gappa, ecco era la voleva Giuseppe di Alghero, lo stesso, stava molto in ascolto, le bande marine e così, capite? Ah beh, peccato. Avanti già. Ehi. Ma le bande marine si possono ottenere a casa, sì. No. Ma si possono ascoltare con i civitori. Tu hai fatto tu i civitori a casa di viaggiare, l'importante è che ti assumi pure le tue responsabilità. Lui c'era la barca, capito? C'era la patente nautica e quindi aveva anche il patentino per un qualche marino. Lo teneva a casa perché a volte lui non usciva in barca, anche non usciva più, usciva le porte e quindi chiamava le porte. Ma come funziona questo marino? Cosa devono fare? L'esame per avere questa VHF marino? Deve avere la barca, devi portare i documenti alla barca, questa è la mia barca, ho bisogno del patentino per il VHF marino. E te lo rilascia la capitaneria. Ah, te lo rilasciano loro così senza VHF. È tipo un permesso, dai. Tu Roberto non ce l'hai nella barca? Sì, ce l'ho il coso, l'autorizzazione per utilizzarlo il coso, però ci sono delle distinzioni da fare, una cosa se parli di un attante, un'altra cosa è imbarcazione immatricolata, di lì ce la devi avere fisso, a bordo, per dire, se vai oltre le 6.000 devi averlo fisso il coso, il VHF. Sì, bene, nello specifico, perché già non l'ho specificato, ma è così, certo, nel cognato c'è la barca grande e c'era fisso il VHF marino, capite? C'è la patente oltre le 6.000 e poi oltre 12.000, non ricordo perché ho fatto un nautico e c'è la barca grande e c'è il VHF, capito? Sì, è così, sono normative già anche lì, rotture di base. Vabbè, non l'ho mai saputo perché non ho mai avuto interesse davvero, però so che ci sono centri di ascolto, tipo cosa posso dire, il centro inciso di Porto Torres, se ce l'ha l'HF marino. Sì, vabbè, avranno utilizzo per qualche scopo a mare, non lo so, le associazioni ce le hanno tutte quelle cose lì, capito? Ce le hanno tutte. Comunque, cambiando discorso, dice che c'è la festa grande sabato e domenica, così. Dice che sta facendo mia figlia, che lei è casa dei genitori del fidanzato, dice che hanno bloccato fino a casa sua e lei abita allo Scoglio Lungo, dietro lo Scoglio Lungo. Ecco, se scende la processione da Balai, passa proprio, fa tutto il lungomare, dalla chiesetta di Balai, fa tutto il lungomare e entra dal porto verso la piazza, verso il corso Vittorio Emanuele. Io penso che ci sia un bel di gente quest'anno perché non c'è la cavalcata. La cavalcata la fanno, mi sembra, se non sbaglio, il 1° di settembre, ho sentito. Il 3 di settembre? Non me lo ricordo, più o meno così. Mi hanno detto, i candelieri confermati 14. Ma ho visto un sacco di manifestazioni, tipo la processione dell'altro giorno. C'è Antonio, quello che lavora a me in officina, che lui fa parte dei candelieri, dice non ha mai visto tanta gente come quest'anno. Forse perché erano 2 anni che non la faceva la processione della Madonna delle Grazie. Io sono passato in macchina quando è domenica, non ho fatto poco di giro, alla fine sono dovuto passare dalla da Coso, perché era tutto chiuso, perché non potevo passare nel Viale Italia, ecco, ho fatto il giro da Rizzetto. Non c'è scena della Giunta, c'era, a Rizzetto. Non lo so, comunque era tutto bloccato, mi hanno fatto, ho detto, beh, esci che facciamo il giro, devo andare a Canica, sono una amica mia, e ho fatto il giro da tutto largo, perché molte volte scendo da San Giuseppe, dai, passo di lì, invece ho fatto il giro da 131. Comunque a San Carmino la gente c'è sempre stata, non vedo mai un lupo per pulire la macchina, deve stare entro l'originale. Sì, quello è vero già, però è capitato più di una volta che era in contemporanea con la cavalcata, le bancarelle erano divise, un po' da una parte un po' dall'altra, mentre quest'anno penso che venga un bel di gente. Io facevo un po' da uno, un po' dall'altro. Quando ci vado a lavorare andavo a San Calvino, facevo, non andavo manco a mangiare, mi controllavo tutte le bancarelle, tutto quanto, e dopo la sera andavo alla cavalcata, la sera andavo alle bancarelle a San Giuseppe, eccetera, ma è fiago di pesciu e bate, così così. No, io sono amico, non ci vado, ma se non so se quest'anno buono organizza, organizziamo qualcosa a Portose, ma sarà molto difficile. Mentre invece mio fratello saliva ogni anno per la cavalcata, le piace molto, quindi sarà sicuramente tanto qua. Da lontano 2 minuti che devo uscire fuori, un secondo per cosa sta facendo mio vicino, se sta tagliando le banche nella strada, ma arrivo subito. Sì, anche io mi allontano, mi mangio qualche cosa. Vabbè, Mario, se ci siete ci sentiamo dopo. Ciao ciao! Ciao, dopo. Ciao, buona serata, dai, buona continuazione, buon appetito. Sì, ciao Claudio, dai. Ciao, sono le 8 già, dai. Mi ritiro un attimino e ci sentiamo dopo. Io sto aspettando sempre un po' di più, lo sto parlando alle 8:30 perché c'è troppo caldo. Quando fa un po' di fresco lo porto giù. Ciao ragazzi, ma lo sai che l'ho dovuto portare al veterinario l'altro giorno? Beh, tolto già, dov'era? Il naso ce l'aveva, dentro il naso, della Longo Bull. Gli è entrato la sonda con la luce, me l'ha fatto vedere, mi ha detto, guarda, l'abbiamo azzeccata al primo colpo. Era entrato questa pinzetta, dove l'ha tolto fuori? Che te ne ha messo di forassacchi? Una spiga. No, già esci, evita, perché può essere pericoloso. Ci entra dentro la recita e buca il timpano. Ma può anche ingoiarla, capito? Quello è molto sicura. E anche non vedo attento, ma il veterinario, ma il rovetto, quando metteva il carbonato, da un portello che c'erano forassacchi. Io stavo sempre attento. Però gli è entrata una al piede, e lo volevo doppiare e quella glielo portai io perché ce l'ho per mettere le unghie, ma stava già camminando. Invece qua non ce n'è di forassacchi, capito? No, io lo sto portando in un'altra zona adesso, dove non c'è molto verde, la verità, c'è qualche po' di erba, c'è più muro e più cemento che altro, però purtroppo lo devo portare lì perché non posso usare più di voi, c'ho 80 euro per cavare i forassacchi, per quanto sia che li voglio bene, però non posso buttarci su. Già. Così è, meno bella va. Dai, esco un attimo fuori, ci aggiorniamo dopo. Ehi, vediamo, se ne voglia entro, là. Ciao, ci sentiamo. Ehi, dai, che c'è anche più fresco, a dopo. Dai, Mari. Piano, vai. già sta iniziando a svegliarsi qualcosa, speriamo bene. Allora, ma non c'è nessuno? Ma io sto spazzolando, non c'è nessuno, ma spazzolando proprio, zero. C'era qualcuno sul coso, ma sulla frequenza, ma oppure è sparita. Andiamo. Buonasera, ben fatto Claudio. Buonasera. Nomi, dopo sono entrato a spegnere tutto e andare a mangiare. Ottimo segnale, 9.10, quasi 9.15, radio a soli, tra l'altro, Super 5. Avanti Luca per Claudio. Ciao Claudio. E tanto, e ce la manda anche a Claudio la foto, dai. Ehi, manda, guarda il segnale Luca, vedere se è sul più o sul 3. No, sto usando l'FT920 della IAESU con l'MD100, ma lì non sto usando il K. Questo c'ha 200 watt. Ehi, già messo la corda il segnale? Una volta va di 9.5, 9, dipende dall'apparecchiatura che stai utilizzando. Comunque, la radio è sempre assoluta, Super 5, là, non cambia. La radio la curiamo sempre, anche se questa radio è digitale, non è per la 27, però già gli abbinamenti li facciamo. No, questa è la versione da 200 watt, quindi è per quello che ti arrivo così. Luca, te bene, ti sto arrivando. Sì, sei sul più, là. Sei poco a poco più alto di Marino. Cazzo, Marino sta arrivando un bel forte, un bel. Marino col capo arriva bene anche qua, 9.20. Ok, perché ne approfitto, mi stanno chiamando, forse la cena è pronta. Ciao Claudio, ben sentito, ciao Luca, ciao Tony Assoltore, per me come dire, prendi Claudio, ciao. Ciao Mari, buona cena, buon tutto alle prossime, vai Lu. Scusa un attimo Luca, ascolta Cla, la signorina tua è sempre in presa d'Italia, sì? Sì, grazie a Dio sì, se ti viene il passaggio portale quella qualcosa. Ok, no, è solo per quello, ok, vai. Ci sentiamo, ciao alle prossime. Ciao Mari, grazie anticipatamente, ti devo un caffè, ciao. Non c'è problema, già lo sai. Ciao Luca, ciao. Ciao Marino, guardati la foto, ciao. Ciao Luca, ciao. Se mi siamo io sopra il 3, invece non va arrivare al 3. Andiamo. No, sul più sì, là. Arrivi forte. Sul più, quanti watt sta dando? 200 watt, questa è la versione a 200 watt. Mettiamolo a 50 watt e vediamo, guarda se cala, così calato è a 50 watt. Prova, scusa? Guarda, così calato è a 50 watt. Sì, 9 più 20, sì. Invece prima più 30, così, più 35, quant'è? Su questo cazzo di più che c'hai cosa vuol dire? Aspetta, calo, ho capito, scusa, ripeti. Cazzo, ma quando ci fa vedendo il baracchino, che non fa vedere il baracchino invece sta il telefono. Ti ho detto, questo segnale che dai sul più cosa vuol dire? Cazzo, non è più, c'è più 30, e poi c'è il fondo scala, no? Comunque, come ti pare, ciao a tutti. Molto calato, Mari. Come? Molto calato. Sì, è calato, sì. Vabbè, era giusto quello, Lo rimettiamo a 200 watt, ecco qua, così, potenza alta, va bene. Ottimo. Ciao, quelli, ciao. Ciao. Se arrivi anche tu forte in radio, io sono qua, non sono al telefono, tomato una foto e boh, a te a Marino, sono qua. Fermi, c'è una radio un bel squillante, capito? Anche Maria poco fa l'ho capito. Squillante cosa vuol dire? Ma io non è che mangio le parole, non sto parlando piano. Questo spinge, anche questo microfono spinge. Appunto. E io quando sto arrivando, adesso sono agganciato. Non so comunque quanti watt sta dando. Allora tu fai da 9.10 a 9.20. Sono con 3 watt. Allora così, staccato sono 3 watt, capito? Ma è molto, 9.10, 9.20, abbondante, va bene. A voglia, ma parte ci sia la radio, a me interessa la radio. La radio tua è favolosa, questa comunque si può usare la radio, ma va bene. A voglia, Cla, ma sono con nessuno stasera. No, io ho fatto un po' di passaggi, ho già nel doppio room con Roberto, però poca gente oggi, non si è sentito nessuno. Vabbè, se arriva il caldo, la gente, come da te? Ma non ti capisco, d'inverno, cazzo, non ti copri, ti copri d'estate. Non, dove no, tu hai un nuovo completo. Filippo, amante Sigosa, Filippo d'estate d'inverno con sempre un brand in Antarichina. Vado a pappare Lucariese, ci sentiamo dopo, intanto entrerà Antonio Bombolo dopo. Via a dopo, va bene, via acceso qua, a dopo, ciao. Ciao, ciao, ciao, fa piacere che questa radio si può usare, se non rimane sempre ferma, beh. Di lusso. Detto da te, sono tranquillo, tutto il resto è noia. Manda roba di più, di lusso. Va bene, a dopo, ciao. Ciao, qua. Hola, hola, hola, attenzione, mi dà 10.